Gaivo una bella cumba che legge a fedeca, gianca cumane e cade slengue a ucianda sa. Tu vale, tu vale, dove tu vale? Che l'ambuscia vede c'è gala e a stu casa, speita come legua caderia su pauria. Come suono tu fai porta amica da smangia giù, che se cuci fisse poi riesci a nave in gatti giù. Nughene, nughene, nughene, nughene, nughene. Vegno da cadura tu come ad un musliga i pe. Segno cuche marotto de na passion che nughene, nughene. Altri nughene, altri nughene, nughene. Dame la sta cumba da maya, gianca cumane e cade slengue in turia. Nughene, nughene. Mi è che sta cumba bella sta de lungo a barbaci, che non ma posse vede a scricchi in tenatru mio. Nughene. A tegno ad indana, se su tanangio de mei grana, qua qui a calata se, a mandinge, a tu bamba già. Tu vale, tu vale, tu vale, tu vale, tu vale. Sveno che mi parlo, te sta segnando e sei che sta con bamba su agiadamente a vostra cana. Sei a serva strigionco, mai un giando un martingo va per con la sedere, fergo de legne anime in sé. Comba con vetta, te cude sei a serva strigionco, mai un giando un martingo va per con la sedere, fergo de legne anime in sé.